Inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dalle ore 20 alle 21.30 qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. Ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste, e andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. E abbiamo ora sentito la sigla di questa trasmissione, sigla che è Retribution dei Behind Enemy Lines, e la trasmissione è Zardins Magnetics in diretta radiofonica ogni giovedì qui dallo studio di Radio Onde Furlane da Udine, e anche come già anticipato prima e come tutti i giovedì, programma che viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Udine. Inoltre oggi, diciamo, puntata un po' particolare, esclusivamente musicale, pertanto come ogni giovedì, insomma come di consueto a fine trasmissione, vi diamo i nostri contatti. Oggi lo faccio anche all'inizio, ed è un nostro contatto per chi volesse scriverci in forma ovviamente elettronica, con la posta elettronica, può farlo alla casella, cioè intestando e scrivendo la mail a liberetutti@autistica.org. Ripeto il nome della mail: liberetutti@autistica.org. E se volete invece scriverci in forma cartacea, basta farlo intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Oppure, se poi in conclusione di questa trasmissione volete risentirla o comunque andare anche all'ascolto di tutte le scorse puntate, potete farlo attraverso zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto anche questo: zardinsmagneticsradio.noblogs.org. inoltre siamo anche su Telegram, basta appunto andare alla ricerca di della t.me/zardins. e se volete, così ve lo tenete in mente per il prossimo giovedì o quelli successivi, quando avete un momento di disattenzione, un impegno eccetera eccetera, potete poi insomma, ricordatevi, cioè più che un impegno di disattenzione, se siete insomma lontani dalla provincia di Udine, anche se magari dico esagerata provincia di Udine, perché magari Radio Onde Furlane già qui dopo Viale Venezia è già difficile ascoltarlo. Comunque, se siete in giro per il pianeta, potete anche ascoltarci in streaming, vi mettete lì a smanettare e insomma ci trovate dal sito di Radio Onde Furlane, che è questa radio che stiamo trasmettendo da Udine. Bene, detto, fatto il pippone, andiamo con questo album dei Doom, che è una band storica del crust punk, anarcho punk inglese. Andiamo con i Doom. We'll be right back. Bene, abbiamo ascoltato questi due brani dei Doom, e tra l'altro abbastanza lunghetti, e particolarità un po' così, diciamo, strana, dato che solitamente sono più brevi. Comunque questi pezzi che abbiamo ascoltato sono estrapolati da questo album, anche se considerato un EP, perché ci sono solamente 5 brani. Ed è uscito nel 2012, grazie a questa etichetta, non so, etichetta così nuova, se vogliamo dire, dei Doom stessi, che si chiama Black Cloud Records, tant'è che appunto non ha nemmeno un titolo questo album, e comunque è la prima uscita per questa etichetta Black Cloud Records degli stessi Doom, appunto del 2012. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band, tra l'altro, vabbè, probabilmente, a parte che l'avevo già detto, comunque Doom, band inglese, storica nel panorama crust, punk, anarcho punk, a livello internazionale. Ora invece andiamo all'ascolto di questa band russa. Loro sono i Siberian Meat Grinder, sono di Mosca, come l'altra band che più volte abbiamo passato in questo programma radio, che sono i Moscow Death Brigade. Questo album dei Siberian Meat Grinder è del 2017, si chiama Metal Beer Stomp, e Bear inteso come comunque orso. E che dire, che insomma, direttamente dalla Russia, da Mosca, che particolarità che il cantante è lo stesso sia di questa band che dei Moscow Death Brigade, e comunque oltre a fare il cantante anche un chitarrista in altre band, comunque uno, diciamo, un personaggio che si dà molto da fare a livello musicale. E comunque ascoltiamoci questa Siberian Meat Grinder. Bring the bus out. I'll kill all the waste, but it goes beyond some cheat. I'm Siberian, reading with my son. Ricordo che stiamo ascoltando i Siberian Meat Grinder, band russa esattamente da Mosca. We'll be right back. Questi erano i Siberian Meat Grinder, band moscovita, e questo è il loro album datato 2017, Metal Bear Stomp. Altra cosa che ho detto prima, particolarità di questa band, che diciamo quasi simile lo stile ai Moscow Death Brigade, altra band di Mosca, che comunque il cantante è lo stesso, anche se questo cantante è un po' un tuttofare, che suona pure anche in altre band, e così stupidaggine da aggiungere a questa band, che anche all'interno, vabbè, contenti loro, eccetera eccetera, ci sono anche tutte le, come dire, tutte, quasi tutte le liriche, la musica di queste, di questa band che abbiamo ascoltato, proprio firmate dal cantante di questa band. E altra cosa che volevo dire è che, tanto vi sarete già dimenticati il pezzo, l'ultimo che abbiamo ascoltato è lo stesso che dà il titolo al disco, che, se vi chiedo che qual era il titolo del disco, non ve lo ricordate, va bene. E ora invece passiamo a questa band inglese, quindi torniamo in England, questa volta però a Londra, mentre prima non ricordo bene, no, che abbiamo ascoltato i Doom, non mi ricordo mai se loro sono di Leeds, comunque non importa, tanto non avrete ascoltato nemmeno i Doom all'inizio. E comunque ora ci ascoltiamo questa band londinese, loro sono gli Agnosi, e questo è il loro album del 2019. Cioè, ci ascoltiamo alcuni brani da questo album del 2019, che si intitola When Daylight Reveals the Torture. Loro sono gli Agnosi. Bene, questi che abbiamo ascoltato sono gli Agnosi, band londinese, e dal loro album datato 2019 che si chiama When Daylight Reveals the Torture. E ora invece andiamo all'ascolto di un altro album, ed è però questa volta di una band francese. Questo è il loro ultimo album. Loro sono di Marsiglia, sud della Francia, si chiamano Butcher Project, e questo è il titolo di questo album, è Ignorance is Strange. Never coming to fucking do. Never coming to fucking do you. Never. Bene, abbiamo ascoltato ben quattro brani per questa band francese, comunque molto brevi direi rispetto a quello che abbiamo ascoltato in precedenza. E che altro dire di questa band? Band di Marsiglia, Francia, questo è il loro ultimo album, Ignorance is Strange. E che altro aggiungere? Vabbè, un così piccolo particolare. Di questa band, che il cantante è di origine siciliana ma ha vissuto a Torino per poi trasferirsi definitivamente per lavoro e tutto il resto suo familiare in quel di Marsiglia, per appunto così far nascere o comunque collaborare con i suoi amici di quel luogo e creare questa band, che non è affatto male. Ora invece, dato che ho anche così detto Torino, andiamo all'ascolto più o meno zona di Torino, all'ascolto di questo album, che in realtà è uno split ed è uscito grazie alla Tadka Records di Cuneo, dell'area di Cuneo, ed è direi fresco fresco, dato che è uscito nell'agosto 2022. Oggi siamo il primo settembre 2022, perciò direi insomma più fresco di così non riusciamo a darvi altro. In questo programma che ricordo che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì qui dagli studi di radio Onde Furlane a Udine, e siete in diretta radiofonica. Quindi è uno split 12 pollici, ci sono due band all'interno, sempre della zona tra Cuneo e Torino, più o meno insomma così diciamo nella provincia cuneense. Sono gli Occhi Pesti, il nome di una band, e l'altra i Cim, però ci arriviamo dopo perché si chiamano Cim e come ho detto appunto Occhi Pesti e Cim. Noi adesso ci ascolteremo i Cim. E che altro dire, copertina di questo disco fatta da componente di una storica band torinese, comunque anche loro della provincia di Torino, ovvero i COV, ovvero Church of Violence, molto conosciuta a livello nazionale negli anni 90, band che poi si è sciolta, chissà se si riformeranno. Comunque questo progetto di questo split 12 pollici che ora ascolteremo è nato nel 2019, poi e appunto avevano registrato le due band, i Cim e come ho detto gli Occhi Pesti, poi insomma a causa pandemia tutto si è bloccato e nel frattempo l'anno successivo nel 2000, cioè un anno e mezzo fa, il batterista di questi Cim è morto, deceduto, e la band e questi Cim hanno deciso di cambiare nome in CNF. E anche se adesso che ho detto CNF mi sono reso conto che ho detto tutto al contrario, ovvero che in realtà prima si chiamavano CNF e dopo la morte del batterista sono diventati Cim. E comunque all'interno di questo disco ci sono le registrazioni col batterista precedente, poi insomma forse anche dopo questa diciamo tragedia alcuni componenti hanno un po' abbandonato la band, insomma hanno continuato questo progetto, però si chiamano Cim. Non saprei dirvi il significato di queste sigle perché nel disco non lo spiegano, e comunque da ex CNF sono diventati Cim. Noi ora ci ascoltiamo un paio di brani per questi Cim, anche se in realtà all'inizio sono le registrazioni dei CNF. Bene. We'll be right back. Bene, abbiamo ascoltato ora due brani di questo split 12 pollici appena uscito proprio da poche settimane dalla zona, nato e creato nella zona di Cuneo grazie alla Tadka Records. E, che altro aggiungere? I due brani che abbiamo ascoltati sono di questa band, i CIM, e comunque anche dei CNF. Non so se avete ascoltato il pippone di prima, che tra l'altro così non è che mi ero preparato, ma leggendo anch'io le note di questo disco ci ho voluto insomma dare una spiegazione al fatto che tutto questo disco è completamente dedicato al batterista dei CIM, che ha perso la vita nel 2021 dopo, appunto, poco prima della pandemia aveva registrato alcuni brani, e la band comunque dopo questa tragedia si era sciolta, e perché magari io prima ho fatto un po' di confusione. Comunque i CIM sono quelli, la band col nome iniziale, dopodiché dopo questa diciamo tragica situazione alcuni componenti hanno deciso di la band si è sciolta, e alcuni componenti invece hanno voluto continuare e hanno cambiato nome in CNF, che quindi ora sappiate. Anzi, altra cosa che aggiungo, prima ho detto che non sapevo il significato di queste sigle, quindi ora se vi capita che suona in giro una band che si chiama Come Nulla Fosse, sarebbe l'acronimo di CNF, che è la band che esiste attualmente. È che ho rispecificato questa cosa solamente perché esiste il blog di questa trasmissione, quindi poi chi riascolta o chi sta ascoltando forse in streaming adesso dirà: ma cosa sta dicendo, falsità questo, come accade sempre quando sei qua in diretta radiofonica, perché è questo che accade nella diretta. E ecco, così ho voluto insomma specificare bene la questione, tanto non ci avrete capito nulla lo stesso, come anch'io più ci penso più mi viene da pensare se l'ho detto giusto. Comunque è così, ora la band si chiama CNF, ovvero Come Nulla Fosse, mentre l'altro lato di questo split è uscito è di quest'altra band, Occhi Pesti, che ora andiamo ad ascoltare anche per loro un brano o due. Non va! E abbiamo ascoltato questa band Occhi Pesti, sono della zona di Cuneo, e questo album uscito proprio questo split album che è stato registrato, oltre a questi che abbiamo ascoltato, Occhi Pesti assieme ai CIM / diciamo CNF, che sta per Come Nulla Fosse, è uscito nelle scorse settimane questo split 12 pollici grazie alla Tatuka Records, appunto della provincia di Cuneo. E altra così particolarità, che il disegno di copertina di questo disco è stato fatto da un componente dei COV, Church of Violence, band storica degli anni 90 del punk hardcore piemontese. Ora invece facciamo così un salto, anzi dal Piemonte saltiamo alla Francia e andiamo direttamente in Spagna e ci ascoltiamo questa band storica esistita tra gli anni 90 e i primi anni 2000. E loro sono i Sin Dios di Madrid, da questo loro album che si chiama Guerra alla Guerra ci ascoltiamo anche per loro una o due brani. Sin Dios. Bene, abbiamo ascoltato ben tre brani per questi spagnoli Sin Dios della zona di Madrid, Guerra la guerra, era il titolo di questo loro album, band che è esistita nell'arco degli anni 90 e un po' anche all'inizio degli anni 2000. Mentre ora invece andiamo all'ascolto di un'altra band spagnola, geograficamente sono del nord-ovest della Spagna, quindi significa Paesi Baschi, e fanno parte di uno split 12 pollici uscito assieme ad un'altra band però francese, credo sempre della zona lì del territorio dei Paesi Baschi, però dal lato francese. Comunque gli spagnoli che ora noi ascoltiamo si chiamano Chaos Cooperative, mentre i francesi non so se li ascolteremo, vedremo. Comunque i francesi si chiamano Tados. Comunque noi ora ci ascoltiamo dai Paesi Baschi questi Chaos Cooperative. Llega un beso. Bene, questi che abbiamo ascoltato era la band spagnola Chaos Cooperative, che più o meno i componenti sono della zona nord-ovest della Spagna, ovvero nei Paesi Baschi, ed è uno split comunque uscito assieme ad una band francese che si chiamano Tados, e comunque è uno split, come ho già detto, 12 pollici, completamente autoprodotto grazie a varie realtà francesi e spagnole che hanno contribuito all'uscita di questo disco. E appunto, non essendoci dei contatti diretti, più o meno così a conoscenza di questi Chaos Cooperative, che tra l'altro, se hanno fatto questo split 12 pollici con allegata anche la versione CD all'interno dello stesso disco, solamente che il CD ha delle bonus track che ovviamente per il minutaggio non stavano all'interno del vinile. E la band francese, dato che c'è tra questi l'etichetta Occitania antifascista, quindi senza un contatto e non è un'etichetta eccetera, presumo che appunto, quindi infatti poi anche c'è il logo dell'Occitania nella copertina, sul retrocopertina un po' in grande, quindi vuol dire che insomma sono da quelle zone lì i francesi Tados, che ascolteremo tra poco, dopo avervi dato i contatti di questa i nostri contatti, perché siamo anche giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics. Mancano pochi minuti, il programma è in diretta radiofonica ogni giovedì qui da Radio Onde Furlane a Udine, e il programma inizia alle 20 e si conclude alle 21:30, ovvero tra 3 minuti. Vi ricordo che questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. E i nostri contatti, se volete scriverci via mail, potete farlo tramite, cioè intestando ovviamente la mail a liberetutti@autistiche.org. ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure scrivendo in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34121 Trieste Centro. Poi potete riascoltare la trasmissione odierna, ma anche tutte quelle delle scorse settimane, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ricordatevi che se siete in giro per il mondo e non c'è, purtroppo vi porta a spasso per il mondo chissà quale sfortuna, ma non potete fare a meno dell'ascolto di questo programma, in streaming ci ascoltate lo stesso nel sito della radio, andate Radio Onde Furlane eccetera eccetera, insomma non è difficile, trovate il giovedì dalle ore 20 Zardins Magnetics. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì, e vi lascio con questa band che si chiamano Tados. Ciao a tutti. Oui, le génocide rwandais, c'est un moment où la France, la patrie des droits de l'homme, s'est retrouvée du mauvais côté. Elle s'est retrouvée du côté des génocidaires. Elle a soutenu, elle a collaboré avec ce gouvernement qui a organisé, planifié et mis en application ce génocide. La patrie des droits de l'homme s'est trompée, elle s'est fourvoyée et elle a toujours du mal à le reconnaître. Et le génocide, la France y a participé en formant les tueurs, y a participé en soutenant le gouvernement, en voyant les soldats sur place. vont être de plus en plus nombreux. La France va faire face à percevoir que ce sont moins que des Syriens qui vont être formés par des soldats français. Il y aura des conseils militaires à l'état-major. Et puis petit à petit, la France aussi ne fera pas voir que la politique du président Pierre Emmanuel qui a rendu la politique française qui a déjà des massacres. L'autorité française, on agit pour notre peuple, comme notre morale, comme notre histoire, comme mémoire. Il y a eu 800 000 morts. 100 jours, 800 000 morts. 100 jours, 800 000 morts. 100 jours.